Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno a tutti, benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani. È un momento un po' complicato per le vendite, per le compravendite immobiliari. Il mattone sta accusando il peso della crisi, i prezzi sono in discesa, poi ovviamente in misura diversa a seconda delle zone e delle città considerate. Il credito bancario, con un eufemismo, diciamo un po' che sia in stallo, chiedere un mutuo non è proprio una passeggiata e magari nei prossimi mesi potrebbe diventare ancora un po' più difficile ottenere appunto un prestito per l'acquisto di una casa da parte del settore bancario. Ieri Moody's ha anche ridotto il giudizio sulle banche italiane proprio in virtù di una prospettiva difficile per i prossimi 12-18 mesi. Paradossalmente, da molti, tutto questo porta a considerare quello attuale come il momento migliore per concludere una trattativa immobiliare, magari per spuntare un buon prezzo, una buona occasione, così i potenziali acquirenti che hanno delle risorse per poterlo fare si stanno guardando intorno senza fretta per capire come sta girando il mercato. La novità degli ultimi tempi è che stanno proliferando dei siti web dove è possibile inserire delle inserzioni private, gratuite o no, sia se si ha intenzione di mettere in vendita un immobile, sia se si ha intenzione di acquistarlo e si cerca appunto una casa secondo determinate caratteristiche. Alcuni siti offrono anche un servizio un po' più sofisticato e allora si applicano appunto, dicevo, delle tariffe per la loro consultazione e oggi questo è il tema di Salva Danaio. Come funzionano questi siti? Ci sono, vi dicevo, quelli generalisti, ci sono quelli specializzati, quanto costa questo servizio, quali sono quelli più frequentati e come hanno reagito gli agenti immobiliari tradizionali alla nascita di questi nuovi canali per mettere, per siglare l'incontro fra domanda e offerta nel settore immobiliare. In realtà spesso gli agenti immobiliari, le agenzie immobiliari, i grandi network ne fanno anche uso per veicolare l'offerta degli immobili intermediari. Insomma, se questo è un argomento che vi appassiona, questa mattina potete interagire con noi chiamandoci all'800 24 0024, scrivendoci al 349 238 6666. Con chi ne parliamo questa mattina? Con Carlo Giordano, amministratore delegato del gruppo immobiliare.it. Benvenuto a Salva Danaio. Buongiorno a tutti. Buongiorno anche a Costanza Zanolini, responsabile della comunicazione di Kijiji.it. Qua mi metto subito in tutta la mattina mi viene in mente le Figi, non so per quale motivo, vi associo. È un nome un po' particolare. Sì, infatti. E buongiorno anche a Franco Arosio, presidente nazionale della FIAIP, che è la Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali. Presidente Arosio, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. I numeri ve li ho ricordati, adesso andiamo ad altri numeri che sono quelli della borsa. Vi ho già anticipato nel giornale radio che oggi è complessivamente una giornata negativa. Dopo la tenuta di ieri, il mercato torna a scendere con Parigi meno 0,8%, Francoforte meno 0,97%, Londra meno 0,98% e Milano meno 0,57%. Oggi il mercato, a parte un po' le preoccupazioni che sono ritornate a guardare al petrolio, che ieri è risalito ai massimi da 6 mesi a questa parte, a 63,8 dollari al barile, ci sono anche delle statistiche a cui si continua a guardare, riguardano anche il settore immobiliare. Oggi avremo il dato sulle vendite di nuove case in aprile negli Stati Uniti e abbiamo invece il seguente quadro di borsa a Milano. Mediaset più 1,67%, A2A in rialzo di un punto, Fondiaria più 1,18%, Popolare di Milano più 0,89%, Ansaldo più 0,5%, Telecom più 0,49%. Segno meno invece su Luxottica, che ha messo a segno una grande operazione in Sud America, una acquisizione molto importante, ma il mercato la trascura, anzi il titolo viene penalizzato con un ribasso appunto di oltre 2,5 punti. Buzzi Unicem meno 2%, Mediobanca meno 1,86%, Autogrill meno 1,77%, in ribasso di 1,5 punti, Pirelli, Mediolanum meno 1,42%, meno 1,38%. Per Bulgari, Fiat perde lo 0,95%, chissà quando avremo delle novità sul fronte Opel, comunque ore decisive, euro su dollaro a 1,38,75. Prima di affrontare il tema di stamattina volevo ricordarvi l'informazione di servizio che il gruppo 24 ore Giunti Editore si sono organizzati insieme per varare un'iniziativa editoriale molto interessante, una nuova collana di manualistica illustrata, divulgativa, e da ieri sono in libreria i primi due titoli sul risparmio, il bilancio familiare di Giuseppe Altamore, mutui e prestiti di Nicola Borzi. Sicuramente non mancheremo di ospitarli a Salva Danaio per illustrare questa iniziativa editoriale appunto partita per iniziativa iniziativa, vi dicevo, del gruppo Sole 24 Ore e Giunti Editore. Lasciamo la borsa, andiamo al tema di stamattina. Parliamo di un tema che vi piace molto: la ricerca della casa attraverso canali alternativi all'agenzia immobiliare. Orologi, vestiti, assicurazioni, viaggi. Online ormai si può acquistare davvero di tutto, anche una casa. Sono sempre di più, infatti, gli italiani che decidono di acquistare sul web la propria abitazione, o perlomeno di servirsi di internet per la ricerca, saltando così di fatto gli intermediari. Soltanto nel mese di marzo, infatti, i siti per la ricerca di immobili sono stati visitati da 2,4 milioni di persone, il 30% in più rispetto a dicembre 2008. Ma quali sono le accortezze da adottare utilizzando internet e quali sono le spese a cui il privato va incontro per mettere la propria casa in vendita online? Accanto a portali in cui la pubblicazione dell'annuncio è gratuita, generalmente le inserzioni volute da privati sono a pagamento, con tariffe che si aggirano intorno ai 35-40 euro per 3 mesi di validità. Basta poi aggiungere qualche euro in più, da 1,50 a 50, per ottenere maggior visibilità all'interno del sito, garantendosi, per esempio, uno spazio nella home page o in una speciale vetrina per un determinato lasso di tempo. Per quanto riguarda invece i contenuti, le informazioni più importanti da inserire nell'annuncio sono naturalmente il prezzo richiesto per la casa, la zona in cui si trova, la metratura e la presenza di immagini di qualità dell'immobile. Per i più pigri o perfezionisti, esistono anche veri e propri tour virtuali dell'abitazione, realizzati da società specializzate. L'attenzione dei potenziali acquirenti, infatti, aumenta quanto più dettagliata sarà la descrizione dell'immobile, sintomo che anche in questo campo la trasparenza premia. 800 24 00 24 è il vostro numero verde, lo conoscete a memoria per intervenire anche questa mattina a Salvadanaio. 349 238 6666 il numero per i vostri messaggi. Allora io direi subito sì, tra l'altro un ascoltatore precisa, siti come Cerco Casa ne cita un altro e analoghi sono utili anche per gli affitti di case, per le vacanze, non male. Sì, ho puntato fondamentalmente sulla compravendita immobiliare, ma forse questi sono i canali ancor più utilizzati per gli affitti. Ne parleremo questa mattina. Allora, ingegner Carlo Giordano, amministratore delegato presidente del gruppo immobiliare.it, 2 anni di vita, ma siete arrivati a intanto far operare, perché poi anche questo è un aspetto che dobbiamo precisare, oltre 8.800 agenzie immobiliari, avete registrato qualcosa come 41 milioni di pagine viste? Sì, nell'ultimo mese i nostri visitatori del network dei portali che seguiamo ha sviluppato 41 milioni di pagine viste, che corrispondono circa a 20 milioni immobili interrogati. Quindi l'analisi corretta è 20 milioni di immobili visualizzati, che corrispondono alla ricerca delle persone. Cioè praticamente da voi passa tutto il mercato immobiliare italiano, se i numeri sono questi. Adesso non vorrei essere esagerata, però sono visibili sul sito 425.000 annunci. Il mercato italiano è molto più grande. L'Agenzia delle Entrate rileva che ogni anno ci sono solo sugli immobili residenziali oltre 1.100.000 compravendite, quindi il mercato è ancora più ampio. E no, noi raccogliamo quanto è interessante per un utente fare, quanto è utilizzato, quanto è importante per un utente ricercare casa. E questo, le 20 milioni di schede immobili visualizzate sono l'espressione che l'utente non guarda un immobile. Certo. Qui riprendo anche quello che abbiamo sentito nel servizio d'ingresso. Online non si acquista casa, online si cerca casa. E cerca, è una ricerca molto diversa da quella che si fa per esempio per un telefonino, per la videocamera, dove tipicamente è scelto il prodotto, trovo il miglior prezzo. E ogni immobile è unico, quindi ogni immobile ha sue caratteristiche non direttamente confrontabili. Poi per carità il riferimento a euro metro quadro rimane sempre, però ogni immobile ha una sua scheda, ha sue peculiarità, e quindi vengono sviluppate molte pagine. Certo. Perché in una nostra sessione un utente visualizza, interroga 17 immobili. Diciamo che il vantaggio più evidente che io vedo nell'immediato è quello dell'enorme risparmio di tempo. Visitare tutte le case fisicamente sicuramente possiamo avere come dire, un impatto ben diverso, però già ci fa risparmiare un bel po' di ore di passeggio e di appunto visione diretta, che è sicuramente, ribadisco, molto utile e indispensabile, però intanto si può avere una prima visione. Qual è l'utente che vi cerca? Su questo vi siete interrogati? Il profilo dell'utente, questo è particolare perché noi operiamo su internet, però è molto diverso dall'utente medio di internet. E mentre su internet il 60% della popolazione che l'utilizza quotidianamente è maschile, per noi il 60% dei nostri utenti è femminile, che rapportato a internet lo rende ancora più grande. E questo è un po' l'espressione di quanto la donna sia il motore della casa e quindi ha una capacità organizzativa e di determinazione molto più ampia. Allora, poi lo spiegheremo, immobiliare.it fa veicola annunci che sono a pagamento, mentre Kijiji.it è completamente gratuito, anche se il vostro è un sito generalista, quindi quanto occupa nell'ambito della vostra attività il ramo immobiliare? Costanza dunque. Zanolini, poi tra l'altro sono andata diretta all'ospite perché la vedevo, ma ovviamente gli ascoltatori non possono vedere. Certamente. Dunque, per quanto riguarda l'ambito immobiliare, noi abbiamo sicuramente il maggior numero di annunci appunto relativo alle case. Abbiamo 250.000 annunci attivi di immobili, e di questi ben 80.000 si riferiscono alla compravendita tra privati. Quindi questo va a sottolineare come in effetti ci sia da parte dell'utente una certa intraprendenza sia nella ricerca che anche nella proposta di immobili, con descrizioni dettagliate, inserimento di foto e quant'altro. Certo, credo che queste siano anche delle condizioni di base per poter fare in modo che il proprio annuncio abbia un successo, perché se non mettiamo qualche dettaglio, ci sono delle condizioni minime che chiedete appunto per poter inserire un annuncio, Costanza? Diciamo che quello che noi consigliamo è di essere il più possibile precisi, perché chiaramente più l'annuncio è dettagliato, più anche si rende appetibile all'utente. E di conseguenza abbiamo un'ampia flessibilità, nel senso che l'utente può veramente inserire tutto quello che vuole, anche paradossalmente dei suggerimenti sulla zona, perché poi succede anche questo. E chiaramente poi è importante avere delle belle immagini e magari anche una piantina della casa. Io stamattina sono andata un po' a curiosare sul vostro sito, ho avuto poco tempo, devo dire la verità, mi è balzato l'occhio su un annuncio di un signore, adesso non mi ricordo chi fosse, no, perché poi ovviamente le generalità del venditore non ci sono. Insomma, ha messo solo le foto del bagno. Insomma, mi ha incuriosito, però è il primo annuncio, è l'unico che ho guardato e mi sono un po' divertita con le mie collaboratrici perché guardavo questo. Detto questo, comunque le foto ci sono naturalmente, sì, perché è necessario avere subito, come dire, almeno le informazioni di base rispetto all'immobile che si vuole mettere in vendita. Vigilate anche, Costanza, sulla serietà di acquirenti e compratori, quindi fino a quanto si spinge anche il controllo del sito che intermedia e che veicola l'offerta e la domanda? Diciamo che all'interno c'è sicuramente una sezione che si occupa della sicurezza. Lo chiedo perché è vostro, proprio perché è gratuito il servizio. Certo, si occupa della sicurezza. Poi chiaramente gli annunci vengono inseriti dagli utenti, l'inserimento è libero, gratuito. Dopodiché il nostro sito è finalizzato all'incontro tra persone, per cui ci deve essere chiaramente una predisposizione a inserire un annuncio su un sito come Kijiji. E poi questo è il miglior vantaggio, è quello appunto dell'abbattimento dei costi, perché noi siamo un sito gratuito. A meno che non si voglia mettere l'annuncio in vetrina, ma ha una spesa irrisoria di circa un euro al giorno per 7 giorni o per 15 giorni, e in quel caso la visibilità è ben diversa, naturalmente, certo, è maggiore. Allora, 800 24 00 24, torno a ricordarvi il numero verde per intervenire. Raccontateci se siete magari in procinto di mettere in vendita la vostra abitazione, qual è il canale verso il quale siete orientati, l'agenzia tradizionale, che comunque non esclude anche come dire il passaggio attraverso questi siti di cui stiamo parlando questa mattina, oppure insomma volete puntare solo ed esclusivamente sul fai da te. Presidente Arosio, eccoci a lei, non mi sono dimenticata naturalmente che era al telefono. Momento complicato per il mercato immobiliare, ci può raccontare un po' come sta andando, come la state vivendo come agenti immobiliari? Ma guardi, io prima di raccontarle, visto che me l'ha chiesto, come va il mercato immobiliare, però tenderei a fare un attimino di chiarezza su quanto si è detto poc'anzi. Perché? Dove non siamo stati chiari? Beh, alternative alle agenzie immobiliari, siti web, io non credo proprio. No, ma infatti l'ho detto che per esempio immobiliare.it operano 8.800 agenzie immobiliari. Lungi da me polemizzare, evidentemente chi ha presentato il servizio conteneva questa frase che ho ben registrato. Alternative alle agenzie immobiliari, no. Facciamo un po' di chiarezza. Ci sono i siti gratuiti, ci sono i siti a pagamento orientati agli utenti finali e ci sono i siti che sono inseriti in un sistema molto più articolato per gli operatori di settore, che sono mutuati dai multi-listing system di provenienza iniziale dagli Stati Uniti d'America. Quindi questi sono siti per gli operatori del settore per poter interscambiare prodotto che un collega non ha, sì, su base nazionale. Questi sono chiusi, evidentemente, è uno scambio tra operatori. Quindi per quanto riguarda sia l'offerta che la richiesta. Benissimo. Per quanto riguarda gli altri due siti, come giustamente ricordava lei e i colleghi che sono in ascolto, sono siti evidentemente che offrono, sono delle vetrine, offrono prodotti risparmiando notevolmente tempo. Qui convengo totalmente con tutti che è sicuramente un risparmio di tempo, perché non si deve peregrinare per vedere degli alloggi, perché oggi diciamo i sistemi informatici ci consentono presentazioni in movimento e quant'altro. Però attenzione, qui dobbiamo fare chiarezza ancora una volta. Gli agenti immobiliari non possono sempre rappresentare un maggior costo in un ambito di transazione immobiliare, devono rappresentare una sequenza corretta di servizi. Un maggior servizio, certo. Sì, ecco, la ringrazio per averlo detto. A protezione, e questo è uno degli obiettivi che tutti gli agenti immobiliari si pongono, in modo particolare la mia federazione, che ne ha fatto un motivo, diciamo, un motivo principale della propria attività. Quindi, se io dovessi vedere, per cambiare settore per un secondo, un'autovettura, mi rivolgerei al sito e troverò il concessionario o il privato che mi vende questa macchina. Dopodiché però non posso fare un passaggio senza considerare quali sono le regole che un passaggio stesso porta avanti. Senta, sì. Questa è una cosa importante, altrimenti lei capisce. Guardi, ma ci mancherebbe altro che come presidente della Federazione degli Agenti non avesse apportato delle motivazioni a difesa della categoria. Noi non volevamo assolutamente metterla in difficoltà parlare esclusivamente dell'alternativa. Di fatto, presidente, questo è un momento molto difficile per tutti. La provvigione all'agente immobiliare, se noi ci rivolgiamo all'agenzia, c'è da versarla, sia se siamo venditori, sia se siamo acquirenti, e magari se adesso c'è un modo per risparmiare su questo, qualcuno lo va anche cercando. Detto questo, se l'agente immobiliare invece è molto serio, molto preparato e ci aiuta in tutta la fase della compravendita e ci sostiene, voglio dire, c'è anche chi... È un po' come la banca, Rosio. C'è chi preferisce l'online e basta, non vuole più ad avere niente a che fare con il bancario, con l'impiegato. C'è chi invece non può vivere senza avere un rapporto diretto con il bancario. Per cui sono comunque tendenze nuove che vanno analizzate, secondo me, e che soprattutto, mi pare di capire, non sempre si mettono in netta contrapposizione con il vostro lavoro. Adesso non riusciamo però a parlare del mercato immobiliare, abbiamo fatto queste precisazioni che il presidente Rosio voleva fare. Allora, eccoci ritrovati a Salvadanaio. Questa mattina siamo ritornati ad esplorare il mondo del mattone e siamo ritornati a parlare di quelli che possono essere i luoghi dove la domanda e l'offerta si incontrano. Voglio vendere un immobile, lo voglio comprare, posso andare all'agenzia immobiliare, posso andare anche a fare una ricerca su alcuni siti internet specializzati nell'intermediazione di questi annunci. Qualcuno è un luogo web che ospita anche gli annunci delle stesse agenzie, come abbiamo avuto modo di spiegare e precisare nella prima parte di Salvadanaio. Alcuni invece sono siti completamente gratuiti che escludono il rapporto con i tradizionali network immobiliari e sono proprio puramente un luogo di incontro fra domanda ed offerta, fra chi vuole vendere la sua casa e chi la vuole acquistare. Naturalmente, ripeto, luogo di incontro della domanda e dell'offerta, poi chiaramente la compravendita va avanti secondo i canoni assolutamente istituzionali e tradizionali. I nostri ospiti di stamattina: Franco Arosio, presidente della FIAI, per la Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali; Carlo Giordano, amministratore delegato del gruppo immobiliare.it; Costanza Zanolini, responsabile comunicazione del sito kijiji.it. Simona da Como, lei proprio tramite Kijiji mi sembra abbia concluso con successo la sua operazione immobiliare. Buongiorno. Buongiorno. Io tramite Kijiji sono riuscita a vendere la mia casa e ad acquistarne una nuova, in un tempo abbastanza breve. Mm. In un primo momento avevo avuto un approccio con l'agente immobiliare. Sì. Però a fronte di un esborso economico abbastanza impegnativo, perché tra la vendita e l'acquisto avrei dovuto spendere all'incirca 15.000 euro, mi sono resa conto che... Pronto? Sì, ci siamo, Simona, stiamo ascoltando. Mi sono resa conto che non mi veniva offerto un gran servizio, nel senso che io venivo messa in contatto con l'eventuale acquirente o venditore. Sì. Poi non c'era nessun servizio a mia tutela, nel senso che non mi ha fatto nessun controllo sull'acquisto, sulla vendita. Magari Simona si era rivolta, non so, ad un'agenzia un po' superficiale, un po' sbagliata, nel senso che probabilmente poi, se no, presenta Rosio mi sgrida un'altra volta. Immagino che ci siano, immagino ci sono anche professionisti sul settore un po' più come dire, precisi nel loro lavoro, però insomma quella che aveva incontrato lei, Simona, non le dava il servizio che voleva. Di che cosa aveva bisogno esattamente? Io vendevo un piccolo appartamento e cercavo una villetta, una cosa un po' più grande. Mi venivano diciamo i tempi, tutti avevano fretta di concludere, sì. Quindi le cose fatte un po' così, sbrigative. Io chiaramente volevo vedere quello che compravo, certo. E volevo essere certa di non incorrere in errori, anche dal punto di vista delle valutazioni dell'immobile. Ma scusi, facendo da sola, invece tramite il sito internet, casualmente è successo che lei abbia concluso anche utilizzandone proprio uno di cui stiamo parlando questa mattina, comunque ha fatto da sola, come può essere sicura di aver spuntato anche i prezzi giusti? Allora, innanzitutto, adesso parlo di questo sito Kijiji, c'erano veramente tante offerte. Aveva dei filtri molto interessanti, nel senso che non ho perso tanto tempo a guardare e riguardare, perché inserendo quelle che erano le mie diciamo richieste, mi venivano forniti, certo, gli annunci relativi. Chiaramente andando all'agenzia immobiliare, quella è, come dire, l'offerta che magari una singola agenzia può darle, al limite si può rivolgere a 3 o 4, ma molto spesso qualcuna chiede anche di, come dire, dare loro un mandato in esclusiva, quindi un po' più complicato poi ovviamente guardarsi intorno. Simona, io ho capito comunque il senso della sua testimonianza e la ringrazio presidente Rosio, la faccio rispondere subito, perché sennò, ribadisco, ho paura che mi sgridi di nuovo. Detto questo, Simona non era come dire molto convinta del servizio, perché lei poi su questo si è focalizzato nella prima parte della sua risposta, che l'agenzia a cui si era rivolta le dava insomma, però lei, come immagino, rappresentante di una categoria molto ampia di professionisti, forse adesso con la difficoltà del settore immobiliare c'è anche qualche ridimensionamento numerico che forse è anche un po' necessario, però insomma voglio dire, quali sono i servizi da cui non si può prescindere rivolgendosi a voi, insomma quali cose siamo nel diritto di chiedervi, presidente? Ci aiuti un po', perché molto spesso anche noi come utente magari non lo sappiamo. Ma guardi, i servizi glieli elencherò tra un attimo e in modo abbastanza sintetico e veloce, però due cose, se mi consente. Una, noi, per dire quanto crediamo noi agenti immobiliari in un interscambio che ruoti su web, Miguel Giordano, che presumo sia in sede da voi, ha un accordo con noi, con casaimmobiliare.it. Me l'ha detto. Recentemente sottoscritto, sì, questo per dire che gli agenti immobiliari sono assolutamente aperti alle innovazioni, ci mancherebbe. Ora, io sentivo peraltro molto male la signora che ha telefonato, però penso di poter dire, e questo è un dato acclarato, che di fronte a 40.000 operatori regolarmente iscritti ci, certo, sono ben 60.000 operatori abusivi che si fregiano del fatto di essere agenti immobiliari. Ancora una volta, io dai microfoni di Radio 24 ho ripetuto più volte che nessuno chiede mai l'abilitazione professionale, sì, che deve obbligatoriamente avere l'agente immobiliare per poter chiedere la provvigione. Questa è la legge 39, che è del lontano 89. Cioè, quindi per esempio, presidente, andando in un'agenzia, io che tipo di documentazione ho il diritto di chiedere ad un agente per capire se opera secondo, perfetto, le regole delle... La prima cosa, verificare se questo personaggio che lei incontra è un agente immobiliare regolarmente iscritto ai ruoli camerali della Camera di Commercio dove lui opera, primo. Secondo, ma questo è anche un po' dettato dal buon senso, insomma, io vado ad acquistare una casa e non mi documento della provenienza dell'alloggio, una copia dell'atto di provenienza, banalissimo, una piantina catastale, una documentazione condominiale che mi dica come è messa la casa in un ambito magari di delibera condominiale. Io col mio agente su questo punto ho litigato, perché sembrava avessi chiesto la luna, guardi, per dirle. Mi assumo la responsabilità. No, di ciò, vabbè, che un esempio, è una cosa vecchissima. Un agente di questo tipo, lei ha il diritto e il dovere di lasciare questo agente ed uscire dal suo ufficio, negozio e quant'altro. Certo. Non può essere, capisce? Però insomma, adesso stiamo anche un po' cambiando strada. Io vorrei ritornare invece al tema da cui siamo partiti per capire invece questi luoghi nuovi per l'incontro della domanda e dell'offerta del settore immobiliare, come funzionano. Abbiamo capito, lo ribadiamo, che non sono in contrapposizione con i canali alternativi, semmai sono un ulteriore supporto. Tra l'altro su questo c'è una considerazione anche di un ascoltatore che è un agente immobiliare, io però lo vorrei sentire tra poco. immobiliare.it. Allora, questo vostro rapporto con le agenzie immobiliari come funziona, ingegner Giordano? Funziona bene, nel senso che effettivamente noi diamo espressione, diamo visibilità al grande patrimonio di offerte immobiliari raccolto dalle agenzie immobiliari, e loro sono molto bravi a strutturare molto bene l'informazione, perché sanno benissimo che una scheda immobile deve essere completa, quindi non c'è difficoltà a dire questa è l'informazione ricercata dalle persone. Però insomma, tornando al tema, è chiaro che non è l'alternativa, perché io se ho bisogno di una certa casa e metto determinati input sul vostro sito, è chiaro che mi vengono fuori 50 annunci che sono di più agenzie, quindi è ovvio che la panoramica che ho a disposizione è molto più ampia, e questo è lo spirito delle vostre vetrine. Questo è lo spirito dei portali immobiliari, la scommessa che hanno è di raccogliere l'offerta, di... Prima raccontava è uno dei successi risparmiare tempo, mi piace estenderlo persino, uno dei successi è ridurre lo stress della ricerca a casa, perché non è solo questione del tempo, del permesso che uno deve chiedere dall'ufficio, ma anche di avere uno strumento che effettivamente aiuta a fare ricerca di mercato, capire il prezzo medio nella zona da me scelta, capire la quantità dell'offerta e poterla valutare con un contenuto informativo molto alto. E il ruolo delle agenzie immobiliari è di qualità, di contenuto, perché effettivamente un agente immobiliare, di quelli della categoria che fanno bene il loro lavoro, sono i primi a sfruttare questa vetrina in un modo adeguato. Lorenzo da Milano, buongiorno, lei è uno di quelli che fa seriamente il suo lavoro naturalmente. Buongiorno, penso di sì. Speriamo di sì. Io lo so che noi anche come utenti ne vogliamo sempre tante. Guardi, la mia migliore amica fa l'agente immobiliare, quindi so benissimo di cosa stiamo parlando. Comunque penso di sì, faccio questa professione dal 94, quindi per adesso penso di avere anche l'adeguata esperienza. Certo, no? Ma vi infastidiscono questi luoghi nuovi, come dire, ma web? Assolutamente no, anche perché secondo me è cambiata un po' quella che può essere semplicemente la comunicazione, la pubblicità degli immobili. Prima, quando io ho cominciato a fare questa professione, c'era un giornale, una rivista del settore, se posso dire. Qui a Milano? A Milano. Seconda Mano? Seconda Mano, esattamente. Vabbè. Hanno fatto il portale anche loro? Secondamano.it. Che pubblicizzava gli immobili dei privati, e noi agenti immobiliari, oltre che a fare il famosissimo porta a porta, la ricerca del cartello, consultavamo anche Seconda Mano per attingere a quelle che erano le notizie dei venditori che appunto promuovevano le loro case. Certo. Di fatto non è cambiato niente, nel senso che oggi, oltre a Seconda Mano, abbiamo i vari portali che ci dicono chi sta vendendo. Quindi per noi sono sempre informazioni che andiamo ad attingere per poi andare a contattare il proprietario e offrire quello che può essere il nostro servizio. Quindi Non valuto assolutamente che sia cambiato nulla, anzi abbiamo più mezzi per poter fare. E forse insomma per aggredire anche in questo momento la difficoltà del settore sono secondo me più che mai utili anche questi nuovi veicoli. Giorgio dalla provincia di Roma, l'ho annunciata, e Carlo Giordano non vede l'ora di sentirla. Buongiorno. Buongiorno e buongiorno al dottor Giordano. Buongiorno. Allora, io ho messo un annuncio circa un mese fa per un bene di un certo prestigio, una villa non lontanissima dalla città di Roma, quindi eccetera. Lo sa Giorgio che l'immobile più caro in assoluto messo in vendita su immobiliare.it è stata una villa d'epoca con parco privato a Capri, 35 milioni di euro? Beh, non siamo a quei livelli. No? Vabbè. No, siamo decisamente molto più bassi. Ci dica tutto. Allora, il sito mi fornisce il numero dei visitatori sull'annuncio, ho messo un annuncio tendenzialmente molto dettagliato perché volevo cercare di selezionare a monte, con 180-190 visite dall'inizio del mese di maggio, quindi un numero discreto. Però purtroppo io gli unici contatti che ho avuto li ho avuti dopo aver messo l'annuncio invece sul giornaletto, sul Seconda Mano Romano, che è il portaportese. Allora, e quindi lei dice, come mai? Mi sono detto 190 visite e nessuno si fa vivo? Risposta, ma forse se il sito mi dicesse con un semplicissimo questionario, dopo che qualcuno ha visto, questa cosa non ci capisco niente, non mi è piaciuto, costa troppo. Quindi un feedback, chiamiamolo così. Quattro flash che mi mettono in condizioni di capire, no, che cosa posso fare per migliorare la mia proposta. Ha concluso la vendita del suo immobile, Giorgio? No, non ancora. Non ancora. Giordano, ha preso appunti però Giorgio, glielo devo dire. La ringrazio. No, ho preso appunti perché il nostro patrimonio nasce da voi, nel senso che più voi ci aiutate a capire quali sono le funzionalità che possono dare un servizio utile, più noi potremo fare bene e continuare. E lo stimolo sul feedback è importante. E a oggi noi abbiamo lavorato più sul feedback negativo, nel senso quando un annuncio ha delle problematiche strutturali, non è più disponibile, non corrisponde al vero, l'utente non mi risponde, che sia agenzia o privato. E quindi l'abbiamo sempre fatto più nel modello correttivo per la qualità del contenuto. E il feedback invece di chiedere al visitatore che cos'è che mi manca, che cos'è si può fare di più, effettivamente non abbiamo, fino ad oggi non avevamo preso in considerazione, però è uno stimolo importante. Infatti, Costanza Zanolini, Kijiji.it, dobbiamo fare anche poi lo spelling per bene del sito perché me lo stanno chiedendo alcuni ascoltatori. La cosa interessante che ci raccontavamo a microfoni spenti è che forse adesso questi luoghi di incontro fra domande e offerte in settore immobiliare stanno andando piuttosto bene per il settore degli affitti, giusto? Sì, sì, indubbiamente il sistema è il medesimo per quanto riguarda anche gli affitti, quindi anche in questo caso Kijiji nasce come un sito molto semplice e di conseguenza molto fruibile. È diviso in categorie, è diviso anche per zone, quindi alla stessa maniera gli annunci vengono inseriti utilizzando la stessa metodologia. Più descrizione, più dettagliata la descrizione, migliore sarà anche la percezione dell'utente. E anche in questo caso abbiamo visto un boom di richieste di affitti, anche magari con specificità in alcune zone. Ecco, tra l'altro io prima forse avevo frettolosamente detto che voi in realtà non veicolate anche l'offerta delle agenzie immobiliari. No, appunto, in realtà noi ci occupiamo, offriamo al nostro utente entrambe le possibilità. Chiaramente siamo ben felici di offrire quella che è la compravendita tra privati, perché ci permette di far sì che i costi vengano abbattuti. Poi chiaramente il nostro sito nasce proprio per facilitare l'incontro tra persone e, essendo diviso anche in città, diventa anche molto semplice poi che una persona di Milano per esempio riesca a contattare un'altra persona di Milano senza costi aggiuntivi. Allora, ci sono molti ascoltatori che stanno chiedendo insomma l'elenco dei siti, perché noi ovviamente stiamo raccontando di due esperienze in particolari, però di questi siti ne sono nati molti per mettere annunci di vendita o acquisto appunto gratuiti in particolar modo. Allora, qualcuno ha la facoltà di far mettere questi siti solamente a pagamento, sicuramente è tutto gratuito, oltre a Kijiji è idealista.it, c'è secondamano.it, ce ne sono molti. C'è un ascoltatore di Firenze che ce lo chiede, guardi, se ne è occupato tra l'altro il Sole 24 Ore nell'inserto Casa e Case di sabato 9 maggio. Se lei ci vuole scrivere a Salvadanaio, noi magari le daremo qualche informazione in più, magari le mandiamo proprio anche il PDF di questo articolo dove può trovare tutte le informazioni. E allora, Carlo Giordano, quanto mi costa mettere un'inserzione sul vostro sito? All'interno di Immobiliare IT e poi il network di portali a noi collegato costa 35 euro e la pubblicazione, salvo indicazione diversa del proponente, dura 90 giorni. Cosa vuol dire un'indicazione diversa? Lo vendesse, cosa che auspichiamo, ecco, sempre tutto, ovviamente lo togliamo, anche perché come diceva Giorgio da Roma, e di visite poi ce ne sono, se l'immobile non è più valido è una cattiva informazione per l'utente che utilizza il sito ed è di danno per chi lo propone. Allora, Adriano da Firenze, buongiorno. Sì, buongiorno. Eccoci. Allora, sì. Io volevo un attimino raccontare la mia esperienza. 7 anni fa ho comprato un immobile a Viareggio, sì. E ho cercato anche a Firenze per anni, adesso mi trovo a Firenze e devo dire che sono rimasto molto molto deluso dalle agenzie immobiliari. Più che altro la tempestività nel far vedere l'alloggio e aggressività c'è, ma nel momento in cui vengono richiesti documenti standard, planimetria o documenti catastali o situazione dell'immobile, eccetera, eccetera, tutto è tabù e le risposte sono classiche: questa è la casa, se le va bene, se no abbiamo altro da fare, per essere sbrigativi. Non parlo di un'agenzia, ma diverse. L'acquisto, per farle capire, l'ho concluso chiedendo alla gente di uscire dalla trattativa e di poter trattare direttamente con il proprietario dell'alloggio. Anche questo sono riuscito a comprare, perché la pressione che faceva per chiudere l'affare stava allontanando il proprietario dell'immobile verso una situazione più tranquilla. Ho capito, Adriano. Ho percepito questo e adesso che devo comprare a Firenze mi sto rivolgendo ai siti internet e anche eBay, che offre un servizio, sì, è vero, di pubblicità. Cioè, ebaycase.it. No, tra l'altro adesso io vorrei anche correttamente dirlo, non è che stiamo facendo questa mattina il processo agli agenti immobiliari, ci sono dei casi problematici, ovviamente da questi prendiamo spunto poi per commentare un po' una situazione generale e ritornare anche al tema da cui siamo partiti, che sono le inserzioni per veicolare l'offerta nell'ambito immobiliare. Presidente Arosio, io ovviamente la devo per forza far commentare anche quest'ultimo caso, ancora un caso problematico, perché al momento, se ce ne fossero, ovviamente io le proporrei anche telefonate di persone che sono molto soddisfatte dell'agente immobiliare. Capita un po' meno spesso, perché altrimenti non telefonerebbero. Il tema è che forse 7-8 anni fa, tra l'altro, c'è stato il boom immobiliare, magari era molto incentivante per la gente portare a termine la trattativa, però questo atteggiamento di essere sempre molto, come dire, frettolosi nella conclusione della trattativa è un po' fastidioso, Presidente, ma non può fare un corso per dare una calmata a questi agenti? Aspettare una settimana in più, voglio dire, non è che comporta poi la perdita di un affare, secondo me è anche sinonimo di maggior serietà, non trova? Ma guardi, lei mi invita a nozze, io ecco. potrei dire al radioascoltatore di rivolgersi solo esclusivamente agli agenti immobiliari FIAIP, per i quali noi rispondiamo in prima persona. Quanti siete, tra l'altro, Presidente? Siamo circa 12.000 in Italia, in un panel, come le dicevo prima, di 40.000 operatori, quindi noi rappresentiamo il 40%, il 30% dell'intero mercato. Ovviamente. Poi, cosa vuole? Io non posso biasimare così in linea di principio un ascoltatore, una persona che si rivolge ad un mercato dove evidentemente l'agente immobiliare che non svolge la sua professione rappresenta un maggior costo. Ma sa, se volessimo parlare di categorie professionali economiche che sono o non sono in linea con i dettami della deontologia, non le basterebbe evidentemente un'intera trasmissione, come lei mi insegna. Sono 5 anni che mi occupo di banche, figuriamoci un po'. No? Beh, dobbiamo comunque saper discernere. Allora, io le dico che partecipo spesso a, ovviamente, trasmissioni anche televisive, non ho ancora sentito in 3 anni e mezzo di mio mandato qualcuno che è contento dell'agenzia. Qualcuno, non solo che mi abbia detto io mi sono comportato come FIAIP ormai suggerisce per iscrivere da anni. Non c'è nessuno che chiede le abilitazioni professionali. Evidentemente nella mischia, purtroppo, oggi... accade quello che accade quasi sempre nei mercati incontrollati, operatori che vengono e si presentano come tali e ovviamente le associazioni di categoria come la nostra, serie, che hanno all'interno deontologia e comportamenti, subiscono poi evidentemente di essere buttati in mezzo a questi luoghi comuni. Però io sono a disposizione, c'è un mio sito che è poi quello di www.fiaip.it e gradirei avere una serie di informazioni da parte degli operatori laddove si identifica un agente immobiliare FIAIP che si comporta. Perfetto, in un certo allora modo. Insieme al sito di Kijiji.it, immobiliare.it, tutti gli altri dove è possibile invece mettere annunci per acquistare o vendere la casa, ci mettiamo anche il sito della FIAIP, la Federazione Italiana degli Agenti Immobiliari Professionali, appunto, dove potremo trovare tutte le indicazioni per pretendere un comportamento corretto da parte dell'agente al quale ci rivolgiamo, perché comunque sono ancora canali largamente utilizzati, non ce lo dimentichiamo, per la conclusione di una compravendita immobiliare. Grazie a Carlo Giordano e a Costanza Zanolini e anche a Franco Arosio per essere stati con noi. Salva Danaio termina qua, noi ci risentiamo come sempre domani. Buona giornata a tutti.